Hashtag Autotrasporti. Buonasera ad Andrea Ferro e bentrovati al nuovo appuntamento con Autotrasporti, la rubrica di Radio 24 dedicata al mondo dell'autotrasporto. Questo programma va in onda in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. 192. Sono le rapine e i furti ai danni di mezzi pesanti nel 2014. È un fenomeno criminale che sta assumendo proporzioni preoccupanti. Negli ultimi anni, infatti, gli assalti compiuti ai danni dei tir sono aumentati. I rapinatori mirano ad impossessarsi della merce, lo abbiamo sentito dal numero. Solo nel 2014, tra furti e rapine, sono stati 192 i mezzi pesanti finiti nel mirino delle gang. A commentare questo numero è in linea con noi Paolo Cestra, direttore supplente della terza divisione della Polstrada. Buonasera, Cestra. Sì, effettivamente nel corso del 2014 in Italia e nei paesi dell'Unione Europea tutto il fenomeno delle rapine ai danni di mezzi pesanti trasportanti merci si è confermato significativamente allarmante. Confermiamo il dato del 192 tra furti e rapine ai danni appunto di mezzi pesanti che trasportavano merci di valore registrato solamente in ambito autostradale nel corso del 2014. L'importo, ecco, pensiamo, è stimabile in oltre 30 milioni di merce dichiarata, quindi il fenomeno sì, ha una significativa rilevanza, come anche rilevante è la merce rubata, il 20% ad esempio è costituito da prodotti farmaceutici, anche sensibili, un altro 20% costituito da cibi e bevande particolarmente pregiati e ricercati, pensiamo a spumanti, champagne, liquori, cibi pregiati e ricercati, il 15% da capi di abbigliamento di marca, da calzature di marca e poi un 14-15% è costituito da materiale informatico di alta tecnologia e elettrodomestici di alta gamma, come anche da strumenti tecnologici di ingente valore. Si tratta quindi di azioni pianificate, cioè si ruba una certa merce che poi finisce su canali di ricettazione già delineati, è così? Sì, confermiamo anche questo dato, basti pensare che sono in aumento ad esempio i furti di idrocarburi, quindi si va a sottrarre petrolio, si va a sottrarre gasolio che poi torna ad esempio su altri canali paralleli di distribuzione, pensiamo al mercato parallelo che riguarda l'abbigliamento di marca, che riguarda le calzature, quindi le azioni delittuose sono mirate al carico, di particolare valore, andiamo a pensare ad esempio ai prodotti farmaceutici, poi con tutto quello che ne consegue, e dopo il furto c'è l'attivazione di tutto il canale di ricettazione, quindi tutto il mercato parallelo. Ecco, in quali aree territoriali si registra il numero maggiore di assalti? Allora, i dati che abbiamo ci danno un numero maggiore di assalti in Puglia, con particolare riguardo in questo caso agli idrocarburi. In Campania, Sicilia, in Lombardia, pensiamo al hub aeroportuale di Malpensa con l'arrivo di prodotti anche con vettore aereo e poi il trasporto su strada, significativo è anche il dato che riguarda la regione Lazio, c'è da dire che proprio nel Lazio ad Anagni il 28 di giugno del 2014 c'è stato il furto, c'è stata la rapina in assoluto con il bottino più cospicuo nell'intera Unione Europea, 17 milioni di euro di gratta e vinci. Tra segnali in controluce sulla ripresa dei traffici da una parte, sulle conseguenze della crisi dall'altra, l'attenzione del mondo dell'autotrasporto si concentra in queste ore sui possibili tagli al comparto determinati dal nuovo capitolo della Spending Review. Stasera in linea con noi ci sono Umberto Del Basso De Caro, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Buonasera. Buonasera. E Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Buonasera anche a lei. Buonasera. Sottosegretario, cosa ci può anticipare su come la spending review potrà incidere sul comparto dell'autotrasporto? Non sappiamo se vi saranno risorse per l'autotrasporto tagliate. Io penso di no e dico anche perché. Perché nella legge di stabilità che il Parlamento ha approvato soltanto 3 mesi or sono, l'autotrasporto ha avuto la stabilizzazione, diciamo, di una somma consistente, 250 milioni di euro, e stiamo naturalmente ora d'accordo e d'intesa con le associazioni provvedendo al riparto delle risorse per le varie voci. Quindi, francamente, mi pare difficile che ci possano essere ulteriori tagli. Baumgartner, cosa significherebbe invece un passo indietro del governo per voi? Noi saremmo molto sorpresi, perché c'è stato un preciso accordo e promessa da parte del governo del precedente ministro. Il fatto che questi 250 milioni diventino strutturali per i prossimi 3 anni, bisogna considerare che abbiamo accettato già un taglio dai 300 passa milioni dell'anno scorso e dai 400 milioni che erano alcuni anni fa, perciò il nostro contributo l'abbiamo già dato. Noi siamo della convinzione che il settore del trasporto e logistica è una funzione essenziale per l'economia italiana, per tutto il settore produttivo e soprattutto per tutto l'export. Se a questo settore adesso vengono tolti questi fondi, ovviamente i trasporti dovranno diventare più costosi, questo vuol dire che il sistema produttivo italiano diventa meno competitivo rispetto all'estero e ne soffre sia l'economia nazionale ma anche e soprattutto il settore dell'export. Sottosegretario, al di là della questione della spending review, il governo cosa può fare ancora? A prescindere dal decreto di riparto delle risorse per il comparto autotrasporto stanziate nella legge di stabilità 2015, quindi quelle di cui abbiamo parlato, i 250 milioni, la novità rilevante consiste non solo nell'aver reso strutturali le risorse per il settore, quindi mirate alla riduzione del costo del lavoro, ad interventi in materia di sicurezza della circolazione, a investimenti aziendali ed a formazione professionale, proprio per consentire alle imprese di programmare gli investimenti necessari a migliorare la competitività sul mercato. Ora, sotto tale profilo, nell'ottica di beneficiare della continuità degli interventi garantita dal carattere strutturale delle risorse per il settore e di favorire una maggiore strutturazione ed aggregazione delle imprese di autotrasporto, si stanno effettuando tutte le valutazioni più opportune per predisporre gli strumenti normativi per consentire lo sviluppo di forme alternative di investimenti per le aziende, quali ad esempio i contratti di rete che garantiscono vantaggi alle imprese nell'ambito dei progetti di filiera. Baumgartner, però alcuni paesi, per esempio Spagna, Germania e Francia, ci precedono in termini normativi, nel senso che hanno adottato provvedimenti a tutela delle imprese nazionali già da tempo. Perché noi invece siamo in ritardo? Infatti io riconosco al signor sottosegretario che effettivamente il Ministero dei Trasporti e il sottosegretario stesso si è adoperato a aiutare con questi interventi normativi almeno in una parte a rimanere competitivi o almeno ad evitare che ci siano delle forme di trasporto non lecite nel nostro paese, perché bisogna sempre considerare che fino ad oggi abbiamo tuttora ancora vettori dell'est Europa che in Italia fanno dei trasporti nazionali in regime di cabotaggio non rispondendo alle normative o non in base alle normative italiane e europee. In questo caso è stato fatto qualcosa. Comunque abbiamo ancora un problema e qui effettivamente l'Italia non si è mossa, mentre altri paesi si sono mossi, per arginare il fenomeno del dumping sociale. Noi sappiamo che gli autotrasportatori dei paesi dell'est, Polonia, Bulgaria, Romania, Slovacchia o altri paesi che sappiamo, hanno dei costi del conducente che è della metà del costo dell'autista italiano. La rubrica di autotrasporti dedicata al viaggio di un bene, di una merce, dal momento in cui viene prodotta al momento in cui è consegnata o distribuita, questa settimana inizia dall'acqua. Parliamo infatti di coralli vivi, quindi di animali da veicolare in condizioni particolari. Francesca Rinaldi di TNT Italia ci racconta le peculiarità di questo trasporto. Noi qualche anno fa siamo stati contattati da un cliente di Asti che per passione per gli acquari ha iniziato ad allevare dei coralli e quindi ha inventato il business della vendita dei coralli online e quindi ha contattato noi perché gli serviva un corriere espresso che potesse trasportare il corallo nel più breve tempo possibile. Trasportare coralli vivi significa prestare la massima attenzione a condizioni e tempi particolari, pronti ad affrontare ogni inconveniente. il corallo non deve subire sollecitazioni durante il trasporto, quindi comunque è un animale che va protetto durante il trasporto, quindi deve avere il suo habitat, deve fare in modo che l'acqua all'interno sia sufficiente per garantire la sopravvivenza dell'animale sia dalla partenza sia fino all'arrivo della spedizione, e quindi insomma un imballo principalmente di polistirolo. Studiato col cliente perché è sigillato, in modo tale che anche se durante il trasporto si dovesse mai rovesciare, per quanto comunque tutte le filiali e tutti i nostri centri di smistamento sono preallertati su questo genere di traffici, per cui hanno un occhio particolare, però se si dovesse rovesciare l'acqua non fuoriesce, per cui l'animale è assolutamente protetto al proprio interno. Termina qui questo nuovo appuntamento con Autotrasporti. Vi ricordo i prossimi mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno e il sabato alle 14. Buona serata a tutti. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.